America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Washington, anzi da Andrews Air Force Base in Maryland, poco lontano dalla capitale, Mario Platero. Siamo un gruppo di giornalisti, forse un centinaio, in attesa di partire per il Brasile al seguito del presidente Obama. Vorrei descrivervi questa base americana. Questa base, una base enorme, devo dire, c'è di tutto, dai campi di golf ai ristoranti, alle scuole, è una base dell'aeronautica militare americana ed è la base che custodisce e mantiene l'Air Force One del presidente. In questa base c'è tutta la flotta aerea della Casa Bianca e dell'amministrazione, gli aerei, cioè civili, quelli che vedete nelle immagini bianchi con la striscia celeste. Siamo ad Andrews con gli altri colleghi, vi dicevo perché. Beh, perché, come vi ho anticipato, finalmente dopo alcuni viaggi in Europa, due missioni in Asia, in oltre due anni di presidenza, Barack Obama parte per il Sud America. Arriveremo questa sera in Brasile, andiamo a Brasilia, poi passeremo a Rio e subito dopo, lunedì mattina all'alba, intorno alle 4 alle 5 del mattino, si partirà alla volta del Cile. Infine El Salvador, un omaggio ai piccoli paesi del Centro America, un tavolo di lavoro soprattutto per la lotta alla droga. E la prima volta dunque da quando è presidente che Barack Obama scende al sud, un viaggio secondo me tardivo, long overdue come si dice in America e come mi ha detto peraltro un funzionario della Casa Bianca qui al seguito, considerando che già vi sono risentimenti nei confronti del nord e che in questi due anni di relativa assenza il nemico Hugo Chavez ha fatto progressi per la costruzione dell'alleanza Bolivarian, la Bolivarian Alliance for the Americas, che si chiama ALBA poi, un gruppetto di paesi che guardano la vecchia sinistra ormai superata in quasi tutto il mondo, ma che include anche la Bolivia, il Venezuela appunto con Chavez e l'Ecuador. Questi sono fra i più importanti, ma c'è l'immancabile Cuba e qualche paese minore, Antigua, Dominica, San Vincent, le Granadine e poi il Nicaragua. Si tratta di un gruppetto però che comincia a contare e che segna uno status quo, devo dire, non positivo per gli Stati Uniti. I do believe that the signals sent so far provide at least an opportunity for frank dialogue on a range of issues, including critical areas of democracy and human rights throughout the hemisphere. Avete sentito il presidente? C'è una scelta chiara di Obama in questa strategia, perché è vero che negli ultimi 15 anni l'influenza di Washington sui compagni continentali dell'emisfero meridionale è diminuita di molto. Un tempo a Washington ci si augurava che nord e sud potessero già essere legati da un accordo per il libero scambio, con libera circolazione di merci, di capitali, ci furono accordi, scadenze, vertici annuali, poi naturalmente non se ne fece nulla. Beh, perché? Ma anche perché l'America voleva procedere a modo suo, voleva che ci fosse un allargamento del NAFTA, ricordiamolo, il North American Free Trade Agreement, fra Canada e Messico, e quindi che questo NAFTA si estendesse fino ad includere gli altri paesi sudamericani. Il Brasile, che allora non era la potenza di oggi, ma che già guardava lontano, premeva invece perché si rafforzasse un accordo di libero scambio locale. E alla fine ha vinto il Brasile, che oggi è diventata ormai la settima potenza economica mondiale. E la sua posizione è che se si dovrà fare un accordo con il Nord, lo si farà partendo da una posizione di forza. E poi da lì in avanti c'è stato un graduale allentamento dei rapporti, perché la posizione americana è una posizione globale. Ecco, io credo che il viaggio di Barack Obama, un viaggio in cui visita Brasile, Cile, poi El Salvador, è un viaggio soprattutto sul Brasile. La posizione di questa Casa Bianca non è una posizione multilaterale nel senso commerciale del termine, ma è una posizione che guarda ai grandi protagonisti dello scacchiere politico globale. Dunque, relazione privilegiata con la Cina, il G2, con l'India, con la Russia. L'Europa in questa fase è rimasta indietro, il Brasile cresce. È una immensa alegria stare qui oggi. È una dimostrazione do avanço democratico do nosso paese. perché per la prima vez una mulher presidirà il Brasil. Cresce con una donna alla sua guida, Dilma Rousseff, il nuovo presidente brasiliano. Beh, è un'occasione per Barack Obama, perché il rapporto con Lula non era dei migliori. Lula aveva irritato Washington, aveva preso posizioni poco ortodosse sull'Iran, aveva un rapporto molto privilegiato con la Cina. Oggi l'economia cinese, dal punto di vista delle importazioni di materie prime del Brasile, sta un pochettino rallentando. Il Brasile, tra l'altro, ha un disavanzo commerciale nei confronti degli Stati Uniti. Ecco, una delle missioni di questo viaggio per Obama è quella di sganciare il Brasile dall'influenza cinese, che acquista ogni tipo di materia prima dei Carioca. Cercherà di modificare anche la posizione di Brasilia sul fronte monetario. Insieme, questo è il messaggio di Barack Obama, ma anche di Geithner, potremmo spingere per rivalutare lo yuan cinese, che crea problemi sia a noi che a voi. Però per il Brasile ci sono anche notizie in arrivo da Pechino che destano un po' di preoccupazione, perché per la prima volta la Cina ha registrato un disavanzo commerciale. Pensate, sono scattati vari campanelli d'allarme, si teme l'inflazione. Il timore brasiliano alla fine è che la Cina rallenti le sue acquisizioni di materia prima. Forse davvero il momento è propizio per rafforzare il legame americano. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter, 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Il 22 marzo arriva nei negozi Angles, l'ultimo lavoro degli Strokes dopo 5 anni di silenzio. Si può già ascoltare online sul sito internet della rock band newyorkese un po' delle loro canzoni. Intanto è uscito il video del primo single di questo album, che vi faccio ascoltare, Under Cover of Darkness. Del presidente Obama è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.